I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, è appena uscito per le edizioni Wanda l'ultimo libro di Daniela Pellegrini. La materia sapiente del relativo plurale, ovvero il luogo terzo delle parzialità. Noi non pensiamo proprio che ci sia qualcuna che non conosca Daniela Pellegrini, ma se ci fosse, magari due parole di biografia possono essere utili ugualmente. Quindi Daniela Pellegrini è una femminista storica, fondatrice del primo gruppo politico italiano di donne, da capo nel 1964, divenuto poi De Mau, e da sempre è una convinta separatista, perché il separatismo è azione fondante e creativa della politica delle donne, nonché una vera autonomia dal patriarcato. Nel 1981 fonda Milano insieme a Nadia Riva Cicip e Cicciap, un circolo culturale politico femminista, separatista, e sempre con Nadia Riva crea la rivista Fluttuaria, segni di autonomia nell'esperienza delle donne, che è attiva dal 1987 al 1994. Ha pubblicato Una donna di troppo, storia di una vita politica singolare nel 2012 e il pamphlet Liberiamoci della bestia, ovvero di una cultura del cazzo, nel 2016. Ora Daniela è in collegamento con noi. Ciao Daniela! Ciao! Proprio per parlare... Sì, è in collegamento con noi proprio per parlare di questo suo ultimo lavoro, no? Una cosa volevamo dirti prima di passarti, diciamo così, la parola, che noi siamo molto contente di presentare il tuo libro. D'altra parte noi abbiamo presentato anche in maniera diversa, ma anche gli altri due precedenti, perché siamo convinte che, sai, contrariamente a quanto si dice, va per la maggiore che ci siano tanti femminismi, noi siamo convinte che il femminismo sia uno solo, cioè quello che vuole percorrere strade di liberazione, che vuole, insomma, in fin dei conti uscire da questa società. Poi di fatto ci sono tanti modi di percorrere queste strade, no? Magari anche molto diversi fra di loro. E quindi siamo particolarmente interessate al tuo ultimo lavoro, alla tua ultima fatica, perché ci ha trasmesso un'idea, cioè che voglia essere una dichiarazione di intenti rispetto all'idea che ci aveva dato Liberiamoci dalla bestia l'altra volta. No, l'altra volta Liberiamoci dalla bestia ci ha dato l'idea di un appello accorato e addirittura corrosivo. È stata come una grande sberla a tutte le donne. Non so se sei d'accordo su questo. Perché voleva essere, diciamo, uno scrollare tutta una serie di situazioni. Invece questo appunto ci ha dato l'idea di una dichiarazione di intenti. E allora volevo cominciare con una domanda che riguarda già la prima pagina del libro, perché mi ha colpito una frase riferita a tua mamma, a tua madre. E questa frase dice: mi ha testimoniato che la libertà di essere ciò che si è sta nel mettere in opera oggettivo e mi ha indicato così la libertà dell'essere e del mettermi in opera. Mi ha vista all'opera e mi ha riconosciuta per ciò che ho voluto essere. Il suo darmi valore non necessitava di possesso o coercizione, che ho interpretato io almeno come esplicitazione del fatto che nessuno può liberare le donne se non la loro volontà di essere ciò che vogliono essere, e allo stesso tempo che le donne sono depositarie di un approccio alla vita che non è possesso e coercizione, tutt'altro. Allora, questa lunga premessa ci dà modo di, prima di tutto, di darti parola a briglia sciolta, nel senso che da questo incipit ci puoi dire qual è in effetti il messaggio che apre il tuo libro? Ma dunque, la cosa fondamentale è quella di riuscire ad uscire e a superare la contaminazione del contesto, anche nella critica e nello smascheramento di ciò che accade, perché il sistema è così invasivo che molto spesso è difficile che abbia l'udito per altre parole. Ecco, io penso appunto che non è un caso appunto come genere sessuato femminile, come questo genere possa trovare solo da solo e solo lui a provare a intendere e a poter pensare altro che questo tipo di paradigma che è quello patriarcale. Adesso tu mi inizi con una domanda a cui posso anche rispondere, anche se avrei preferito fare una premessa rispetto al poter decidere che cos'è questo rapporto senza possesso e di cui parlo rispetto a mia madre, no? Che è chiaramente tutto un accumulo di cose che nel libro viene come di più dichiarato e aperto, ecco perché. Però appunto, se vuoi una specifica risposta a questo, a questa domanda, che non è... Io penso che nell'esperienza corporea del partorire c'è l'uscita dalla simbiosi, nella separazione di due soggetti autonomi, nell'esperienza corporea delle donne, per cui l'accudimento, che è rigenerativo delle madri, segnala la possibilità di rispettarla, questa esperienza di separazione, rendendola libera dalla pura dipendenza. Nel rispetto che proprio questo lavoro rigenerativo ha insito in sé come materia delle diversità e parzialità dell'essere, compreso il fatto che le donne partoriscono sia uomini che maschi, sia femmine che maschi, certo. Cioè sono due cose diverse. Questo può accadere se non inquinate dal maschile, certo. E ciò può accadere anche come rivalsa, perché può accadere che come rivalsa venga messa in atto a compensazione del disvalore e dello sfruttamento del corpo femminile, che viene mimetizzato dalla ipocrisia del mito del dono e del dovere di cura, no? Certo. E nel tentativo di risarcimento di tutto questo può venir messa in atto un tentativo di appropriazione e di possesso, appunto, che rimanda comunque a una contaminazione al maschile che poi in tutto il libro se ne parla, ecco, di questa messa in atto delle differenze. Diciamo che forse quello che volevo dire io era una cosa più specifica, cioè che le donne, da questa frase a me era venuto fuori un pensiero di questo tipo, che nessuno può liberare le donne se non la loro volontà. Solo che bisogna fare un lavoro per poterlo riuscire a fare, un lavoro che dipende tutto da un movimento delle donne che sia sempre più consapevole sulla critica e la demistificazione di un paradigma che le vede in quella loro differenza, che per quanto mi riguarda era lì da vedere anche prima della teoria della differenza, nel senso che è proprio su quello che si sono poi costruiti dei paradigmi di contrapposizione di valori, come dire, di appartenenza esclusiva all'una o all'altra delle due sponde di quella che io chiamo materia, che non ha niente del materno, ma materia nel senso del, dell'esistente, del vivente. Ecco, il vivente ha un sacco di facce, di possibilità di esprimersi. Poi è la lettura di queste differenze che è il volerle denominare che le mette, come dire, in una situazione di valorizzazione o svalorizzazione, che viene fatta da chi ne vuole prendere possesso o avere potere su queste differenziazioni, no? Che vanno da sicuramente la pelle, cioè, nera alle donne, appunto, alla materia delle donne, eccetera. Mi resta un po' difficile, in effetti, risponderti. Perché mi sembra, appunto, di saltabeccare, capito? Forse è il mio spirito virginiano che vuole andare prima di iniziare l'intervista, che sono una precisetti, perché io ero in qualche modo, avevo pensato in qualche modo di arrivarci, no? Anche perché tu nella premessa parli della donna di troppo e poi del liberiamoci della bestia. Certo. Perché, appunto, nel liberiamoci della bestia ho cercato di mettere in evidenza i risultati delle rivelatori delle messe in atto concrete rispetto alla lettura, alle denominazioni, ai valori dati a queste differenze. E avevo cercato di rendere evidente al contempo le basi e i risultati reali, ancora prima che quelli simbolici, che le azioni di questo fare costruiscono, e la loro connessione e conseguenzialità con la materia e i corpi che le ispira. Nella concretezza delle scelte più o meno in sapiens che sono state fatte, soprattutto dal mio punto di vista dal patriarcato, ho voluto e cercato di mettere a nudo questa connessione e di mettere a nudo il soggetto corporeo che l'ha sconnessa, invece che messa in atto, nella presa di possesso e negazione e rivalità con la materia che ha determinato il significato simbolico invasivo e mortifico, quello di una cultura del cazzo. Il libro è stato uno sfogo, così speravo fosse per un movimento delle donne che aveva abbandonato un iter di critica e di mistificazione del maschile alla ricerca di esserne accettate, viste, premiate, magari con identici diritti di uguaglianza, quelli che la democrazia maschile può darti, e magari perfino finalmente essere amate. Mentre in questo nuovo libro approfondisco il percorso di questa demistificazione da un lato, e dall'altro ricerco e descrivo in concreto le ragioni di una messa in atto in sapiens di una finzione che sbocca nel virtuale immateriale, quella del che io chiamo quella del grande bluff patriarcale, che io vedo basato su una mancanza materica ed esperienziale e nel tentativo di sostituirla e sostituirsi nella cancellazione, nel disprezzo, nello squilibrio che porta e costringe alla degenerazione invece che alla rigenerazione della specie, e non solo della specie ma del mondo intero. Il disprezzo e tentativo di cancellare riservato alle donne ne è prova e risultato in sapiens per tutta la specie, ed è, immagino, che si possa vedere in ciò che accade nel mondo da secoli. Certo. Ecco, ed è per quello che poi mi interrogo cos'è davvero la differenza, perché io penso che essa non esista in modo intrinseco, è avulso dallo sguardo di chi la guarda. Siamo convinte. Interpreta. Sì, sì. Esiste solo nella sua messa in atto concreta. È quello che dicevo prima, no? Perché volerla definire e denominare è quella di chi, così così facendo ne vuole prendere potere o attribuirsene il potere. Certo. La messa in atto della diversificazione della materia e perciò anche delle due cosiddette due antiche sostanziali differenze e perciò dei corpi che la interpretano e che ne determina il valore e i conseguenti risultati rigenerativi o degenerativi. Sono... è tutta una questione di consapevolezza e di scelta. Certo, sì, infatti era proprio questo. Il risultato più o meno sapiens ed evolutivi. Vabbè, mi fermo lì perché forse sono troppo... No, è tutto chiarissimo, anzi, diciamo che ci hai raccontato tante cose, ma soprattutto... stai ricreando il filo conduttore che lega Liberiamoci dalla bestia a certo. La materia sapiente che sto cercando di fare che accumula e aggiunge man mano che va avanti, no? È come per ciò che si capisce in un percorso di vita, ecco. Certo, sì. Possiamo interromperti un attimo che ti volevamo chiedere un'altra cosa, non volevamo però interrompere il filo del tuo discorso. Possiamo... No, volevo forse concludere che l'esperienza delle donne e degli uomini si è accumulata nei secoli di patriarcato e delle sue scelte conflittuali. E il mondo ne dà testimonianza. E la separazione tra materia e pensiero del maschile è diventata la tomba del vivente, perché il rifiuto della materia e la volerla subliminare è la più grossa, secondo me, finzione che il pensiero del maschio ha messo in atto nella vita, certo, della specie. Siamo... E io sono convinta che solo la materia può generare pensieri, a cominciare dalla massa cerebrale e della sinapsi che la materia ti fornisce, perché se non te la fornisce non pensi, giusto? Giusto, giustissimo. Però anche i pensieri dipendono da chi e a che scopo li si pensa. È sempre, collegato, certo, al discorso sulla consapevolezza. E poi le ragioni del suo bisogno di far questo, anche questo viene, cerco di spiegare nel libro. Comunque mi interrompo perché mi dici che è meglio. No, ma tanto siamo sempre partendo sempre dal libro, da un passaggio secondo noi molto importante del libro, è legata alla seconda domanda. E tu ad un certo punto scrivi: la nostra identità di genere si basa sulla presa di coscienza che proprio l'attribuzione di valori differenti alle differenze sessuali ha attuato la nostra cancellazione e il disvalore, la sudditanza di ogni elemento soggetto descrivibile come femminile. Allora, questo ci fa venire in mente un'analisi che abbiamo fatto riguardo all'attribuzione, come dici tu, di valori differenti alle differenze sessuali. E dicevamo: ogni donna realizza inconsapevolmente un programma che in lei è stato introdotto. La sua normalità è così il dramma, appunto, dell'esecuzione automatica, inconscia, della propria programmazione fabbricata per lei dal capitale, espressione attuale del patriarcato. Quindi la domanda è, a partire da questi passaggi del testo, da questa riflessione, come possono le donne prendere coscienza di questo? Di aver introiettato un programma prefabbricato per loro? Sì, qualcosa forse viene fuori da quello che ho detto in anticipo, ma comunque come risposta diretta voi lo sapete bene, possono venirne fuori con la pratica dell'autocoscienza, col separatismo, su cui non mi dilungo perché mi avete già fatto anche un'intervista su questo tema, che indaga il contesto della coercizione ad essere ciò che le donne devono e sono costrette ad essere e anche rispetto alla definizione del maschile e del femminile, che non sono soltanto una questione sessuale, no? Ma è no, assolutamente, di rapportarsi dentro la specie, dei rapporti di classe, di razza, di tutto, cioè di chi ha gerarchicamente il potere di imporre e di chi se ne è costretto ad esserne vittima. Esatto. No? Ecco, per cui la cosa essenziale è demistificare profondamente queste messe in atto mortifere del maschile e delle sue gerarchie, che poi gli hanno dato la possibilità di mettere in atto una fascinazione tale come vincente in questa gara di superiore, inferiore, buono, bello, che affascina anche le donne. Non è un caso che la richiesta dei diritti uguali è praticamente, dal mio punto di vista, una richiesta di essere equiparate al vincente, o almeno la possibilità di diventarlo, no? Di esercitare il potere nello stesso modo. Il neoliberismo impazza su questa cosa qua, e io sono molto preoccupata che le donne ne vengano travolte nel desiderio, appunto, del vincere. E questo è sacrosanto. È un desiderio di esercizio di potere. Ecco, e naturalmente un altro dei modi per riuscire a capire qualcosa di questa questione è leggere i miei libri, oltre a quelli di ormai sempre più donne consapevoli, naturalmente, perché poi c'è anche un fiorire nuovo, perché io appunto mi stravolgo sempre quando le donne, per darsi come anche delle ragioni, eccetera, continuano a citare definizioni e pensieri maschili che per me sono finzioni, ecco, rispetto a una base materica di corpi negati, ecco, e autonegati, e sono sempre più preoccupata del fatto che vengano considerati come liberatori, ecco, invece di pensare con le proprie teste. È vero, questo è verissimo. Ecco, e in fondo anche il movimento delle donne, quello più teorico, diventa un riferimento che tarpa la possibilità individuale della propria libertà. Cioè è un... io quello lo chiamo come andare a scuola di femminismo, no? Ed è per quello che continuo a sostenere il bisogno di una pratica di autocoscienza, proprio del partire da sé, come nel vetero, perché adesso lo chiamano vetero il femminismo, che porti, come dire, a un percorso di consapevolezza individuale, non di adesione a una o l'altra teoria o... capito? Certo, c'è infatti... C'è un altro passo molto interessante in cui tu parli del nuovo aspetto del potere patriarcale, no? Per esempio della globalizzazione e del nuovo aspetto del potere patriarcale che ha inglobato il femminile e le sue lotte per le varie parità. E tu dici, con un esempio molto azzeccato secondo me, che la presenza simbolica di sguardi e azioni al femminile oggi edulcora ogni tipo di contraddizione e la rende ancora più stabile e ineludibile, perfino impercettibile, come la guerra umanitaria, tra virgolette. Sì, questi ossimori assurdi. Certo. Perché in un altro punto del libro parlavo che adesso inventeranno anche l'inquinamento salubre. Sì, brava, sì, una buona cosa questa. Sì, però mi ha colpito molto il fatto, questa intuizione molto bella, che dice che la presenza simbolica di sguardi e azioni al femminile, che in effetti è il modo in cui stanno usando il femminile adesso in questa società, edulcora ogni tipo di contraddizione. Infatti la contraddizione resta poi quella fondamentale, quella col maschile, che poi prende possesso anche del femminile e lo fa, come dire, suo, mantenendo tutto il peggio del resto, no? Perché è evidente che la globalizzazione vuole sottendere contemporaneamente, conciliare le differenze magari di cultura, di razza, di condizioni sociali ed economiche e via dicendo, col metodo della loro uniformazione a un potere cosiddetto democratico, che io chiamo democratico, bellissimo, repressivo delle diversità, da lui e dai suoi fratelli di potere, perché poi queste condizioni economiche, di cultura, di razza restano tale quali, con lo sviolinamento della democrazia e dell'acquisizione di diritti che si fanno diventare, entrare nella possibilità di essere pari a chi vince, cioè diventare tutti quelli che possono avercelo duro, come dico io, e qui riparto sulla mia preoccupazione che le donne ne siano affascinate, capito? Perché col violino zigano della democrazia uguali per tutti, evviva, evviva, evviva, e in più con gli impedimenti che questa democrazia cosiddetta mette, come se fossero dei premi, no? Certo. Per riuscire a, per cui diventa, come dire, l'obiettivo unico, diventare come partecipare a, sempre per entrare, integrarsi a un concetto, diciamo, patriarcale che è furbissimo. Che poi è sempre una concessione dall'alto. Sì, sì, anche per integrarlo, no? Anche il femminile, a parte che poi c'è anche il tentativo di cancellarlo definitivamente, no? Anche in queste nuove... Ma c'è... Come, cioè c'è anche come un tentativo di appiattimento delle diversità che mette in atto il neoliberismo. E come si diceva appunto nell'ipocrita libertà, il diritto e autodeterminazione di scelte anche di questi nuovi soggetti, no? Certo. Che tendono poi ad un unico indifferenziato, a cominciare dalla cancellazione della diversità dei corpi, certo, della sessuazione. Lo sai che adesso si chiama buco davanti e buco di dietro, no? Certo, no, certo, è vero. È la persona che è incinta, non è la donna. Sì, è vero, è vero. Per cui appunto questa cancellazione della sessuazione, soprattutto di quella femminile, e non ne elabora, ne esce certo dalle caratteristiche uguali, quelle di sempre, per cui il maschile continuerà a prevalere sul femminile e sì, anche sì, le donne stesse vorranno in qualche modo, cioè c'è il pericolo, ecco, che lo vogliano cancellare, no? Tanto è vero che si sono messe anche nella prospettiva di sfruttare il corpo delle altre, no? Certo. E che trovino normale la prostituzione piuttosto che il GPA, certo, atteggiamenti molto di sfruttamento e di prevaricazione sul femminile, no? Ma a me viene in mente un po', è come il pifferaio di Hamelin, no? Poi tutte, sì sì, il patriarcato, il neoliberismo, che poi è legato a filo doppio col patriarcato, sta operando un'azione di questo tipo, cioè canta tutta una serie di cose e le donne gli stanno andando dietro. La fascinazione del vincente, quella che poi io inizialmente nell'altro libro chiamo sindrome di Stoccolma, no? Certo. Perché poi ami chi ti opprime e il passo successivo è che vorresti essere tu anche al suo posto. Sì, no, è verissimo. Tant'è vero che tu a un certo punto parli della... materia dei rispetti alla, verso la fine, in contrapposizione alla carta dei diritti. Ci puoi spiegare che cos'è? Sì, beh, cioè, dove appunto per me è sempre la questione del partire da, cioè, il rispetto è relazionale, giusto? Sì. E non è che tu sei di diritto qualcosa, ma hai il rispetto per te stesso a partire da te, dal sé, della famosa coscienza femminile, certo. E dal rispetto della propria, ma anche altrui, base materica. Per cui il rispetto si riverbera su ogni diversità, o meglio parzialità, perché poi tutta la parte propositiva del libro, quella che sembra forse un pochino visionaria, quella in cui parlo dei frattali, non so se c'è la certo. mente. Sì. Ecco, per cui appunto, cioè in questo rispetto il reciproco si fa regola. Il rapporto dentro la materia sapiente e rispettosa di sé collettivamente, cioè se io comincio a rispettare la materia mia, ognuno insomma parte da sé per darsi il diritto, anzi il rispetto, che deve essere, come dire, valutato reciprocamente, senza la negazione di materica di qualcosa che non riguarda tutti e tutte, insomma, tutte le parzialità, ecco, per cui rispetto a cominciare dal proprio corpo, ai propri sentimenti, al proprio modo di vivere, insomma, il vivente, ecco, un rispetto del vivente che è un rispetto, non è un diritto. Io non ho il diritto al pane, rispetto la necessità di tutti ad avere il pane quotidiano. Certo. Non so se riesco a esprimermi, ma... No, no, sei stata... È chiaro che va elaborata rispetto a tutti quelli che adesso fanno parte della Carta dei diritti, no? Certo. Ecco, perché poi il diritto appunto di fare quel cavolo che mi pare, per non dire quel cazzo che mi pare. Tanto per rimanere in argomento. Rigida, ecco, no, non è, nulla è lecito che non rispetti un altro, capito? Per cui non hai il diritto di nulla se non rispetti il collettivo delle parzialità e diversità che fanno della specie una cosa basta, certo. Ecco, in più poi appunto nella parte poi mia più propositiva, quella che io denomino frattali, perché sono in parte legate a questa idea di parzialità, è chiaro che la materia viene in ballo tutta nel suo complesso cosmico, allora divento quasi un po', come si può dire, tu l'hai letto, no? Sì, sì, sì. Perché in pratica appunto è come se io la mettessi in relazione alla materia cosmica delle diversificazioni che la materia pensa e mette in atto. Certo. Ecco, far parte di questo universo di parzialità che si muovono, agiscono, pensano dagli animali, ma anche i sassi, tutto è materia che si evolve oppure si disgrega. Ecco. Allora se la specie umana vuole essere definirsi sapiens, dovrebbe mettere in atto pensieri ed azioni che lo siano davvero, no? Certo. Anche rispetto a tutto il resto, alla materia cosmica, come la chiamo io. Senti, a proposito della materia cosmica, io vorrei leggere una poesia che c'è alla fine di questo libro, verso la fine, insomma, nelle ultime pagine, che io ho trovato molto, non solo molto bella, l'abbiamo trovata molto bella, ma risponde a quello che stavi dicendo adesso tu. Sì, sì, e sì. Dice, sì, sì. Mi piace anche a me quella poesia, perché non è tronfia. No, guarda, è bellissima. Nel senso che dice cose semplici. Esatto, ma ti fa capire proprio questa, ti dà proprio la sensazione di quello che hai detto tu. Io adesso te la voglio leggere, perché la voglio leggere. Grazie. Per chi ci ascolta. No, per chi ci ascolta, perché rende l'idea di quello che è stato detto finora. E dice: io lo vivrò nella melagrana, negli acini dei grappoli dell'uva, nelle spighe di grano, nelle ombre difformi delle luci. Mi ritroverò nei mille semi e nei mille sassi, nelle gocce e nei fili d'erba. Camminerò sulle polveri, le sabbie e le durezze delle pietre, e saprò dei cammini multiformi del mondo, nei cangianti suoni dell'unisono concerto della materia. È bellissima. E quindi sì, in fondo è la sintesi un po' di quello che vorrei riuscire ad arrivare, per cambiare un paradigma che invece si riconosce in nulla se non in se stesso. Certo. Forse solo nelle loro mutande. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo di questa chiacchierata, anche perché diciamo che è molto importante cercare di uscire da questo pantano in cui non solo è il femminismo per un verso, chiamiamolo così, ma le donne tutte, e questo è il problema molto grave. E quindi speriamo che il tuo libro sia un altro schiaffo, già lo è stato, già lo è stato, liberiamoci dalla bestia, che svegli un po' riflessioni, che faccia che spinga alle riflessioni che tu hai giustamente spinto. Guarda, è come se volessi entrare nella testa delle donne e dargli veramente una scrollata. Non so se questa è l'impressione che abbiamo avuto noi o se... Secondo me è l'emozione che ti può dare un paradigma così diverso, no? Certo. Perché e quindi noi adesso ribadiamo. Sono materialista più della materia. Quindi adesso noi ridiamo i riferimenti. Il libro si chiama La materia sapiente del relativo plurale, ovvero Luogo terzo delle parzialità, edito da Wanda, e qui a Roma le donne lo potranno trovare presso la libreria Anomalia in via dei Campani 73 a San Lorenzo, a cui, se ci danno tempo, lo porteremo prestissimo. Quindi grazie tantissime, grazie. Daniela, e un grande abbraccio. Grazie a voi.